La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, torniamo a parlare di crisi, economiche. Abbiamo visto il governatore di Banca Italia ieri, Draghi, che ha dato l'allarme, chiede riforme all'Italia, ma noi, come al solito, la quota rosa vogliamo fare il punto anche su quello che succede proprio nel campo femminile, come le donne vivono questa crisi e come possono sconfiggere anche un mondo economico prettamente maschile. Per parlare di questo, oggi abbiamo con noi tre ospiti d'eccezione. Intanto l'inviata del Sole 24 Ore, Serena Uccello, giornalista economica, che si trova al Festival dell'Economia di Trento, che si intitola Identità e crisi globale. Poi abbiamo l'onorevole Laura Pennacchi, economista, già sottosegretario nel governo di centro-sinistra e autrice anche della moralità del welfare contro il neoliberismo populista, e anche ci è venuta a trovare Maria Teresa Armosino, membro della commissione bilancio PDL. Un buongiorno a tutti. Io partirei intanto con Serena Uccello. Di che cosa parla questo Festival dell'Economia? Ci sono anche tre premi Nobel. Come sta andando? Buongiorno a tutti. Sì, ci sono tre premi Nobel. Uno ha parlato ieri, ha aperto il festival, ed è stato Akerlof. Stamane invece il primo appuntamento appunto con i Nobel sarà quello con Ekman, che è introdotto da Tito Boeri, parlerà di economia e psicologia della personalità. Ma visto che stiamo parlando della presenza femminile nel mondo dell'economia, dobbiamo dire che prima di Ekman oggi, stamattina, i lavori saranno aperti da Anna Maria Lusardi, che è economista e ricercatrice, che ci parlerà della crisi dei mutui. Questo festival è appunto molto connotato dalla ricerca femminile, abbiamo accennato appunto alla Lusardi, ma più avanti, in corso di giornata, una nostra collega del Sole 24 Ore, Paola Bottelli, parlerà di si costruisce un brand, e ancora nel pomeriggio Alessandra Casella, introdotta da Tiziano Masson, parlerà di democrazia per le minoranze. Brevi cenni per farvi capire appunto come, dicevamo, la ricerca femminile è abbastanza presente in questi lavori di queste giornate. Il festival appunto è stato inaugurato ieri, è in corso oggi, si concluderà lunedì, e si concluderà con un altro premio Nobel che chiuderà i lavori, ed è Spence, che parlerà, sempre ancora introdotto da Boeri, di quale sarà il mondo, che mondo ci aspetta dopo questa crisi. E, l'argomento principale è quello di capire quali elementi avere per decifrare i cambiamenti in corso in questi ultimi mesi, soprattutto con un'apertura a discipline nuove che non sono solamente quelle dell'economia. Un elemento molto importante di questo festival è quello di valutare i cambiamenti economici alla luce appunto di discipline diverse, quali la sociologia, la psicologia, capire anche come elementi irrazionali che sono propri delle personalità, possono invece essere anche elementi che caratterizzano l'andamento dei mercati e scelte che di solito vengono invece fortemente connotate da un elemento di razionalità, che possono essere invece le scelte economiche. Durante i lavori del festival hanno delle formule diverse, ci sono degli incontri diretti, ci saranno invece degli spazi qui invece i protagonisti di questi incontri incontreranno proprio in piazza i visitatori e gli ascoltatori, ci saranno invece degli incontri con degli autori, ad esempio in queste giornate sarà qui Enrico Letta a presentare proprio oggi pomeriggio il suo libro Costruire una cattedrale, ma accanto a queste formule di incontro piuttosto ormai diffuse ce n'è una nuova, ed è quello del processo all'economia. Queste giornate appunto verranno scelte dei personaggi e anche dei temi, e verranno sottoposti a un vero e proprio processo con un pubblico ministero e un avvocato della difesa. La giuria saranno i giovani presenti al festival, giovani anche studenti della facoltà Facoltà di Trento che, come dire, a loro toccherà dare la sentenza rispetto ai temi che verranno appunto sottoposti a questo pubblico processo. Allora Serena, io ti interrompo perché proprio tu mi hai dato lo spunto, abbiamo detto un processo, facciamo il processo all'economia, all'economia maschile. Io intanto vorrei subito capire da Maria Teresa Armosino, PDL, se vi preoccupa questo allarme dato dalla governatore di Banca Italia Draghi, ha detto che i disoccupati potrebbero arrivare al 10%, quanti di questi saranno donne? Ci viene sempre da chiedere. Maria Teresa Armosino, che cosa ha in mente il governo, la maggioranza per frenare questa crisi terribile? Direi che vorrei permettermi prima una, però un'osservazione personale, prima ancora che certo. Del governo. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. In relazione alle affermazioni del dottor Draghi, cioè una affermazione da donna. Le donne hanno vissuto e sentito prima degli altri la gravità della crisi, perché è stata una crisi a valenza prevalentemente finanziaria che è consistita in una totale assenza di industrializzazione o capacità di realizzazione di cose concrete. E credo che questo sia percepito prima dalle donne, cioè proprio l'arte del fare, prima ancora del realizzare qualcosa. Donne che realizzano il capolavoro della loro figlia creando, della loro vita creando figli, che sono una cosa quanto mai concreta. Quindi penso in astratto, come giudizio personale, che una presenza maggiore delle donne fino dal passato nell'economia e soprattutto nei luoghi dove si comandano i processi economici avrebbe potuto fino a diminuire o ridurre gli effetti di una crisi finanziaria, cioè di non produzione, di creazione falsa di ricchezza, che è stata una delle cause della crisi economica mondiale. Allora, un attimo, io interrompo perché dovevo dare la linea alla regia, l'avidità maschile come una delle cause della crisi globale. La quota rosa. E abbiamo sentito lo spunto che ci dà Maria Teresa Armosino, membro della Commissione Bilancio PDL. Insomma, forse se ci fossero state più donne al comando, dice Maria Teresa Armosino, magari la crisi sarebbe stata meno grave, giusto? Lo ribadisco assolutamente. Allora, dire che cosa si fa per favorire l'ingresso delle donne è argomento che abbiamo molto spesso trattato, certo. Quindi bisogna, ed è difficile da riassumere, sicuramente tutte quelle che sono le barriere all'ingresso e alla promozione per l'arrivo nelle stanze dei bottoni devono essere abolite, e con attenzione, devo dire, non lo avrei fatto 15 anni fa, ma oggi invece sposo integralmente tutte quelle misure di promozione, tra virgolette anche forzate, di donne nelle stanze dei bottoni. Quindi la quota rosa nei consigli di amministrazione è una proposta del PDL, del Popolo della Libertà. Sentiamo allora Laura Pennacchi, PD economista. Che cosa è successo? C'è stata veramente questa avidità maschile che è stata una delle cause della crisi economica? Sicuramente l'avidità è stata una delle cause. E che cosa bisogna fare affinché le donne finalmente ci siano nei consigli di amministrazione, entrino quando si parla anche di soldi e non solo quando si parla di cose tipo la pubblicità e il marketing, no? Nelle aziende. Cosa bisogna fare di più? Certamente l'avidità è stata una molla terribile che ha veicolato l'intero modello di sviluppo che oggi viene in crisi, perché quello che è importante anche per interrogarci su che cosa possiamo fare perché le donne manifestino le loro qualità salvifiche, mi viene fatto di dire, rispetto alla crisi in corso, dobbiamo prendere atto che questa crisi gravissima, la più grave dal 29, che investe tutto il mondo, che sta devastando appunto tutto il mondo, tutte le economie, le società sia sviluppate sia non sviluppate. Questa crisi è la crisi di un intero modello di sviluppo. Infatti noi guardiamo alle variabili che hanno, le richiamo brevemente senza analizzarle, che hanno costituito questo intero modello di sviluppo. Esse sono la deregolazione selvaggia, il che ci dice però che non è in questione soltanto una categoria di genere, l'aridità maschile, è in questione un modello sociale e un sistema di rapporti sociali. E la deregolazione selvaggia è stata soprattutto veicolata dalle destre e dall'amministrazione Bush in particolare in tutto il mondo. Quindi deregolazione selvaggia, innovazione finanziaria sfrenata che ha portato alla creazione di un mostruoso sistema ombra in tutto il mondo, con un'infinità di partite fuori bilancio, incontrollate, e quindi anche con una con i titoli tossici. Esattamente, e quindi anche con un fallimento e con un conflitto di interesse enorme delle società di rating, ma anche altre variabili sono state l'economia e la cultura del debito, bassi salari, salari stagnanti e basso welfare pubblico, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma rispetto a cui non a caso oggi Obama si propone di rilanciare una sorta di innovazione del modello sociale europeo che fa negli Stati Uniti, bassi salari, dicevo, e scarso welfare pubblico. Queste enormi diseguaglianze che sono state alimentate, questo insieme di variabili ha portato a un tipo di sviluppo intrinsecamente patologico, con una fragilità immensa che oggi viene soprattutto alla luce. Io adesso vorrei anche chiedere un parere tecnico della professoressa Maria Cecilia Guerra, economista e direttore del Dipartimento di Economia Politica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Quanto le donne subiscono la crisi, quanto le donne possono essere invece il motore di un nuovo sviluppo, di uno sviluppo più sostenibile, di uno sviluppo per tutti e non per pochi? Beh, le donne subiscono la crisi perché per tante ragioni, una delle quali è che sono spesso impiegate nei segmenti più deboli del mercato del lavoro, con lavoro precario, e questo ovviamente le mette facilmente fuori dal mercato del lavoro quando si manifesta una situazione di crisi. Questo succede anche perché c'è un circolo vizioso che non riusciamo a spezzare, cioè c'è difficoltà da parte delle imprese ad assegnare alle donne ruoli più impegnativi, perché ci si aspetta che le donne siano più facilmente disponibili dagli impegni familiari, no? E quindi se c'è una necessità di far fronte alla malattia del figlio o alla malattia del genitore, è la donna che rimane a casa dal lavoro. Fa vedere questi lavoratori, le lavoratrici donne, con un occhio meno sereno da parte delle imprese. Quindi ovviamente la difficoltà, la precarizzazione del lavoro femminile è legato fortissimamente a questo ruolo che viene adesso affidato in maniera sproporzionata, estremamente sproporzionata rispetto agli uomini, di occuparsi del lavoro di cura, figli e genitori, e del lavoro domestico. Questo è un problema fortissimo, lo squilibrio fortissimo, specialmente nel nostro paese, che si distingue proprio sotto questo profilo da quello che succede anche nelle principali nazioni sviluppate. E il contributo delle donne potrebbe essere rilevante proprio se si riconoscesse anche in termini di valorizzazione, no? Di riconoscimento sociale il lavoro che svolgono, nel senso che noi abbiamo una misura del benessere della nazione che è limitata al cosiddetto prodotto interno lordo, ma tutta la produzione che avviene dentro le mura domestiche e nel lavoro di cura non viene considerata, mentre è stimata contribuire al nostro benessere, perché vale, se le assegnassimo un valore al prezzo di mercato, vale un terzo del PIL, il 33% del PIL aggiuntivo. Allora, quello che voglio dire è che uno spazio per sviluppare prospettive qualificate di occupazione e al tempo stesso costruire possibilità di accesso al mercato del lavoro, parificare le possibilità dei due sessi nei confronti della vita pubblica in tutti i sensi intesa, non solo lavorativa ma anche di partecipazione, se si riconosce che questo campo, cioè il campo del lavoro di cura, è un campo di cui ci si deve fare carico collettivamente, perché avere una buona assistenza per gli anziani, avere una buona assistenza per i bimbi non è un problema individuale, è un problema collettivo che contribuisce in modo cruciale al nostro benessere. Quindi riconoscere che... poi effettivamente in modo remunerativo anche il lavoro delle donne, questo è. Riconoscerlo, ma anche predisporre, come diceva giustamente, non solo in senso morale, riconoscere anche come modello sociale di sviluppo l'importanza che il welfare, le politiche anche a favore dell'istruzione, dei giovani, dei bimbi, gli anziani hanno per il modello sociale che andiamo a costruire, per il benessere della nostra società. In quello ci sarebbe spazio sia per occupare professionalità femminile, sia per liberare le donne da un eccesso di cura e renderle e quindi disponibili anche in relazione ai titoli di studio che ormai si stanno conquistando per un contributo sicuramente positivo, se non altro perché vario, creativo, sul mercato del lavoro. Allora, una domanda poi flash però, perché siamo in chiusura, a Maria Teresa Armosino. Allora, il PDL si prepara a questa proposta di legge sulla parità nei CDA, una proposta invece che non è ancora stata fatta o che lei ha in mente di fare, sempre per una parità maggiore nel mondo del lavoro? Beh, aderisco però a quanto hanno detto entrambe le altre persone che sono intervenute. Cioè, è necessario comprendere che siamo di fronte a una crisi epocale di valori della società e quindi deve essere rifondata su basi e su progetti nuovi. Da questo discendono tutti gli altri interventi, io incluso, e sono d'accordo, il conoscimento del valore delle attività di cura e quindi del welfare. Perfetto, Laura Pennacchi del PD, abbiamo sentito Maria Teresa Armosino di PDL, Laura Pennacchi. Io penso che sarebbe molto importante adottare indicatori di sviluppo che rendano più giustizia alle qualità di cui le donne sono intrinsecamente portatrici e di cui lo sviluppo futuro ha molto bisogno. E qui indicatori che non siano soltanto sul PIL strettamente inteso, economicisticamente inteso, ma indicatori che riescono a dare il senso di un elevamento della qualità della vita complessiva, non solo con aspetti quindi economicistici, e che riescono a dare il senso della relazionalità e della socialità. Le donne sono portatrici dello spirito di relazione, di apertura verso gli altri, di cui le donne sono portatrici, che potrebbe contrastare tantissimo quella tendenza verso l'egoismo, il consumismo compulsivo che è frutto dell'avidità. Perfetto, allora chiudiamo invece con Serena Uccello, il Festival dell'Economia di Trento, Identità e Crisi Globale, un kermesse che ci sarà fino al 1° giugno, organizzata dal gruppo Sole 24 Ore. Quale sarà il piatto forte? Qual è stato il piatto forte? Il piatto forte, come abbiamo detto, sono sicuramente la presenza dei Nobel, però visto che stiamo parlando molto di donne, io vorrei dare un ultimissimo appuntamento con la presenza al festival di un magistrato antimafia che si chiama Roberta Buzzolani, che sarà presente domenica alle 19:30 a un incontro in cui si parlerà di racket, partendo da un libro che è uscito questa settimana per Einaudi, che è L'Isola Civile. Roberta Buzzolani è un magistrato che da sempre contrasta il crimine organizzato e che quindi racconta l'economia dal punto di vista dell'economia illegale e dal punto di vista di chi contrasta l'economia questa economia illegale. Allora, ricordiamo quindi il Festival dell'Economia, Identità e Crisi Globale a Trento, e ricordiamo che lo potete trovare sul nostro sito, sul sito del nostro giornale www.ilsole24ore.com. La quota rosa. Mamme e blogger, ma che cos'è? Che cos'è? Che cosa vuol dire questo fenomeno? Ma sono le donne tecnologiche? No, no, no, le donne cambiano i pannolini, cucinano la pasta asciutta, mangiano l'insalata, ma mettersi davanti a un computer? Ma giammai, giammai. È un pregiudizio? Un po', però la maggior parte dei blogger sono maschili, no? Allora, per parlare di che cosa succede e che cosa succede proprio nel mondo della tecnologia e come le donne si comportano in questo mondo che invece può dare loro molti vantaggi, abbiamo con noi Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, nostra vecchia conoscenza, organizzatrice dell'evento MAM 2009 che si è svolto il 23 maggio, e poi Cecilia Spano, fondatrice di Fattore MAM, società di servizi di marketing e comunicazione con l'obiettivo di creare relazioni fra brand e mamme. Quindi, insomma, poi anche le donne potrebbero avere dei vantaggi. Laura Laposta, qual è il rapporto tra donne e tecnologie? E poi cosa hai scoperto tu nelle tue inchieste di questo mondo tra blogger e donne? Ma è un rapporto che sta migliorando, quello tra donne e tecnologie. Ci sono sempre stati dei gap tra il mondo dell'informatica e le donne, ma invece adesso questi gap sono in fase di superamento, come dimostrano i 250 blog aperti da mamme italiane in rete, recepiti da una recente Ask Bocconi. Paola Dubini, che insegna alla Bocconi, ha realizzato questa ricerca secondo cui ormai ci sono in rete 250 blog solo sull'argomento della maternità, o meglio, sono blog aperti da mamme che cominciano ad aprirli tentando di parlare della vita sociale, dei problemi sul lavoro, dei consigli da scambiarsi, della necessità di fare network tutte insieme, e poi in realtà sondano tutti gli aspetti del sociale, dall'ambiente ai consumi responsabili, alla solidarietà sociale, agli ostacoli architettonici delle nostre città. È un mondo affascinante che si costruisce la notte tramite collegamenti internet in prevalenza a banda larga. Il marito e i bambini vanno a dormire, alle 23 circa si accende il computer, fino all'una, alle due, alcune fino alle tre di notte, e tanto ormai sono abituate a dormire meno degli uomini con l'allattamento, si sono abituate a dormire meno, quindi vanno avanti a tessere queste relazioni sociali in rete che poi diventano anche relazioni vere nella vita di tutti i giorni attraverso questa formula dei mom camp, gli incontri tra donne, e attraverso anche occasioni di lavoro che nascono dalla rete. Quindi la frequentazione di internet per le mamme e per le donne è una frequentazione notturna, anche perché se hanno dei figli adolescenti durante il giorno non avranno mai accesso al computer. Questo mi sembra che sia una costante delle famiglie italiane, giusto Laura? Il Sole 24 Ore, il nostro giornale in particolare, tu hai fatto delle inchieste proprio su questo fenomeno. Sì. Se ne è occupato anche Nova 24, il nostro inserto del giovedì, ci siamo basati appunto su questi dati della Bocconi, ci siamo basati sulle interviste a tante di queste mamme che abbiamo incontrato di recente qui a MAM 2009, e devo dire che ci si è aperto un mondo che non pensavamo esistesse. Ho aperto davanti a me, mentre parlo, il post, così si dice, da Gloria nel sito momcamp.it, che prenderà poi il testimone dal nostro MAM che si è svolto invece sabato scorso, e Gloria, una di queste mamme blogger, scrive una lettera al figlio: caro figlio, tu oggi hai 7 anni e cerchi il tuo posto nel mondo, io ho 31 anni e sto facendo la rivoluzione, una rivoluzione che a 15 anni non ho potuto fare, perché credevamo non esistesse più niente per cui lottare, che tutti i giochi fossero già chiusi. Quando quasi un anno fa ho aperto il mio blog, credevo solamente che non interessasse a nessuno, in realtà ho scoperto che così non è, ho scoperto che nella rete ci sono tante donne, tantissime mamme che hanno voglia di sé, e così un po' per caso è nato il termine mamma blogger, che adesso è una comunità in continua crescita. Sto facendo la rivoluzione anche per te. Questo mi pare che sia proprio il senso di questa community di persone che escono arricchite dall'esperienza di blog online, e noi speriamo francamente che escano arricchite poi in un futuro anche nel portafogli, perché tante di loro possono tranquillamente poi mettere, come dire, aprire il loro blog alla pubblicità, alla vendita online di prodotti, e davvero speriamo che il web possa costituire anche fonte di reddito per queste intrepide pioniere. Intrepide pioniere, Cecilia Spanu, fondatrice di Fattore Mamma, società di servizi di marketing e comunicazione con l'obiettivo di creare relazioni fra brand e mamme. Che cosa fate e che cosa avete scoperto in questo magnifico mondo della rete al femminile? Noi ci siamo avventurati in questo mondo delle mamme innanzitutto perché eravamo mamme noi stesse, ma abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. In Italia c'è un modo di fare comunicazione un po' tradizionale, molto tradizionale. Ci sono grandi multinazionali che fanno campagne un po' patinate, parlando di una mamma che probabilmente non c'è più. Poi ci sono magari le piccole aziende con dei piccoli tentativi, ma nessuno si lancia nel parlare in modo innovativo, nel cercare di creare delle relazioni a due vie con le mamme. Quindi Fattore Mamma è nata per questo, per cercare di trovare dei nuovi modi per comunicare alle mamme italiane. Un po' abbiamo guardato all'America, dove invece ci sono tantissimi esempi interessanti, un po' però abbiamo guardato innanzitutto cosa volevano le mamme. E l'idea di Fattore Mamma, di incontrare il sole per un evento che mettesse a tema proprio le mamme, è nata proprio dal contatto con le mamme sui siti internet che noi gestiamo, perché il lavoro era diventato... è un tema assolutamente di preoccupazione per molte. Ci sono mamme di vari tipi che tentano attività da liberi professionisti o sono dipendenti, ma spesso in entrambi i casi quello che viene fuori dai blog scritti di notte è una grande fatica a volte a non essere capiti dai propri mariti, una volta invece a essere altre volte per essere, come dire, costrette a fare le acrobate fra mondo del lavoro e casa. E l'occasione del MAM 2009 era proprio un'occasione di positività, dove innanzitutto fare incontrare queste mamme perché scambiassero informazioni fra di loro e costruissero qualcosa, un network utile per poi fare il proprio lavoro, e secondo che quelle che hanno fatto qualcosa che potessero presentarlo alle altre. In questo senso siamo veramente contente, perché ci siamo rese conto che il bisogno c'era, e la risposta che è stata data da MAM 2009 è stata veramente apprezzata da tutte le parti. Insomma, l'internet, come noi diciamo, sarà proprio lo strumento di lavoro poi al femminile, perché il telelavoro è una cosa che avvantaggia soprattutto noi donne. Questo volete fare voi, Cecilia Spanu? Sì, cioè il di usare la rete per comunicare permette alle mamme di avere quel dono che ancora non hanno, cioè quello dell'ubiquità, essere da una parte e dall'altra contemporaneamente. Per cui anche il modo stesso in cui lavoriamo noi di Fattore Mamma, io e Yolanda Restano, che è l'altra socia della nostra avventura, è proprio questo. Ciascuno ci troviamo per incontri dove dobbiamo praticamente discutere di cose o fare cose insieme, ma quando non è necessario ciascuno di noi ha la sua base con banda larga da casa, in un posto, come dire, tranquillo, però vicino a casa o in casa, e questo ci permette di risparmiare tantissimo in spostamenti, in ore in macchina. Per questo siamo certi che il web possa essere uno strumento di facilitazione per le mamme per lavorare. Riusciremo a convincere gli uomini, che generalmente sono a capo della società? Noi vogliamo farlo, per cui stiamo lavorando su tanti fronti e vogliamo dimostrare, vogliamo togliere il dubbio che facendo queste cose non si è professionali. Questo vogliamo arrivare a dimostrare, questo, che si possono fare le cose bene anche in un altro modo. C'è anche un po' di pregiudizio, no? Che se si fa il telelavoro in realtà non si lavora perché stai a casa, quindi non lavori, no? Un po'. C'è questa cosa, ma che stai a casa a lavorare? E tu dici, vabbè, sì, come lavoro in ufficio, posso lavorare anche da casa, no? C'è un po' questo pregiudizio, ah sì, va bene, ma poi non ti concentri perché scoli il broccoletto, certo. Prepari il riso, creare delle condizioni per cui ovviamente non si possono fare queste cose nella cucina mentre i bambini ti girano intorno. Io ne ho quattro, quindi sarebbe impossibile. Quattro bambini e una donna lavoratrice, complimenti. Però se uno si ritaglia uno spazio, un luogo, l'ultimo piano di casa tua, cantina, cioè poi uno può diventare creativo in questo, uno spazio per sé, tutto per sé, il lavoro si fa bene. Laura, allora c'è questo pregiudizio, no? Telelavoro, sì, va bene, però poi si fanno altre cose, no? C'è il pregiudizio da parte delle imprese, ma anche poi da parte dei lavoratori. Andrebbe veramente fatto un appello anche ai nostri sindacati di aprire di più le porte del dialogo verso questa forma di lavoro che è importante per le donne. Io credo che sia un ottimo segnale che adesso nelle segreterie, nelle organizzazioni sindacali stiano approdando sempre più donne che portano dentro le tematiche della famiglia, perché è importante instaurare il dialogo sociale. Se c'è diffidenza da parte del datore di lavoro, da parte anche del lavoratore che rischia, che ha il pericolo, lo spettro davanti a sé di essere o demansionato o accoltellato alle spalle dai colleghi mentre non c'è, oppure visto male o semplicemente in un senso di isolamento generale perché lavora da casa e non è in un ufficio, non si arriva da nessuna parte. Più flessibilità da parte di tutti. Donne, mamme, lavoro in rete, ricordiamo il programma di un convegno che si è svolto il 23 maggio nella sede del nostro giornale a via Monterosa 91 Milano, sede del gruppo Sole 24 Ore, con Laura Laposta, capo redattrice del Sole 24 Ore. È sempre un piacere averti qui alla Quota Rosa. La Quota Rosa. E in quest'ultima parte vogliamo parlare di un argomento che purtroppo ci interessa, ma non è un argomento leggero né stupido, è purtroppo come le donne sono trattate in guerra, che cosa succede a noi, alla parte rosa, in una guerra, e una testimonianza di quanto succede. La guerra in corpo delle donne, una mostra al Museo della Grafica di Pisa di Francesco Zizzola, fotografo, al quale subito chiediamo perché le è venuto in mente di guardare la guerra dal punto di vista femminile. Beh, come mio solito, ho cercato di individuare tra le tante storie possibili una storia che di cui si parla poco e che è poco visibile nelle pagine dei giornali o nei servizi radiotelevisivi. E questo perché io credo fermamente che, nonostante viviamo in un'epoca tecnologica che permette di fatto il collegamento globale, proprio in questa epoca paradossalmente questo mondo. Tra i vari argomenti, appunto, nell'ombra che io uso, diciamo, cercare di schiarire, c'è questo drammatico l'argomento drammatico, il tema drammatico dell'uso delle donne nei conflitti. Io ricordo di essere stato molto impressionato ormai 15 anni fa durante il conflitto nell'ex Jugoslavia, dagli stupri di massa, dal tentativo di, come si diceva all'epoca, di inquinamento etnico delle etnie del nemico attraverso appunto lo stupro delle donne del nemico. In questo caso invece io mi sono recato in Colombia per raccontare di un conflitto latente, un conflitto poco visibile dai media, che tuttavia si protrae da oltre 40 anni. Infatti da 40 anni è in corso in quel paese un conflitto in cui governo, paramilitari e guerriglia combattono sullo sfondo del narcotraffico e della lotta per il controllo delle risorse naturali presenti nel paese. E nel corso di tutti questi anni gruppi armati resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, terrorizzando la popolazione civile sia nelle aree rurali che in quelle urbane. In questo contesto, diciamo, le persone che hanno accesso all'assistenza sanitaria e che possano in qualche modo vantare una protezione dei loro diritti sono pochissime. e viceversa le donne e i bambini, soprattutto le donne, sono i soggetti più esposti, più deboli a tutte queste violenze. Giusto per sottolineare il contesto, vorrei ricordare che il paese, la Colombia è il paese con il più alto numero di sfollati interni al mondo, è il paese dove il 75% di questi sfollati è composto da donne e bambini. Ed è il paese, tra l'altro, dove è il quarto paese al mondo per numero di mine antiuomo disseminate sul suo territorio. In questo contesto la violenza endemica che scandisce ogni momento della maggioranza della vita della maggioranza dei colombiani, quella esercitata su donne ne è il capitolo più scabroso. Queste foto sono state prese quindi in Colombia in varie parti del paese? No, la mostra si riferisce a una zona specifica della Colombia, che è nell'area del Cocho, ed è una zona estremamente isolata ma molto importante per dal punto di vista militare, sia per chi deve in qualche modo assicurare lo sbocco sui mercati della cocaina, e quindi è molto strategica per della guerriglia che di questo traffico vivono, che per il governo, proprio in contrasto, per contrastare quindi il potere di gruppi paramilitari e dei gruppi di guerriglia che di narcotraffico vivono. Quindi in quella zona si verifica un acutizzarsi dei problemi endemici che naturalmente troviamo presenti in quasi tutto il paese. E che cosa ha scoperto lei come fotografo? Quali sono le immagini che ha scattato? Ce le vuol far vedere in radio, anche se è molto difficile da descrivere un'immagine, però ci possiamo provare. Sì, in realtà io credo che in radio sia il media e lo strumento forse più efficace di descrizione di una fotografia, perché lavora sul piano dell'immaginazione, ed è proprio quello che una buona fotografia dovrebbe riuscire a stimolare, cioè l'immaginazione al di là del dato reale, ecco. E proverò a descrivere un paio di fotografie, forse le più significative dal punto di vista del tema appunto affrontato, che è quello appunto sulla violenza delle donne. Una di queste, che poi è stata usata appunto a Pisa per rappresentare un po' tutta la mostra, riguarda il ritratto di una ragazza che qui chiameremo con il nome fittizio di Federica, di 22 anni, madre di 4 figli, fotografata all'interno dell'ospedale San Francesco di Assisi di Quibdo, che è una cittadina, piccola cittadina nell'area del Cocho. E questa ragazza di 22 anni mi ha raccontato la sua terribile storia, e si è fatta fotografare, io l'ho incontrata e si è fatta fotografare lì dove l'ho incontrata, in una saletta del reparto maternità dell'ospedale, dove è in attesa dell'interruzione di gravidanza, perché per la seconda volta ha subito violenza sessuale. E dovete sapere che in Colombia l'aborto non è permesso, o non era permesso fino a 2 anni fa, e ora una legge ne consente appunto l'esecuzione soltanto in casi appunto di violenza accertata. Questa allora quindi è una fotografia, l'ultima fotografia, che siamo in chiusura, quindi velocissima. Un'altra fotografia purtroppo invece riguarda Maria, sempre un nome fittizio, ed è la fotografia di una bambina di 8 anni, ripresa naturalmente di spalle, di cui scorgiamo la nuca, i capelli, un orecchio, una spalla, ed è stata violentata dal compagno di sua madre, ed è una fotografia ripresa in un centro gestito da Medici Senza Frontiere, che lì opera e cerca di alleviare le sofferenze di queste donne. L'ambulatorio di Medici Senza Frontiere, che fornisce spesso assistenza anche psicologica, soprattutto ai minori vittime di violenza. Allora, la guerra in corpo, Francesco Zizzola, ancora per questo weekend al Museo della Grafica di Pisa. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione, vi do appuntamento al prossimo sabato, vi ricordo che ci potete scrivere alla quatarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.